Ventitreesimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrata da Sabina. Purgatorio, ventitreesimo canto. Mentre che gli occhi per la fronda verde ficcava io, sì come far suole chi dietro gli uccellin sua vita perde, lo più che padre mi dicea: figliuole, vienne oramai che il tempo che n'è imposto più utilmente compartirsi vuole. Io volsi il viso e il passo non men tosto appresso i savi che parlavan sie che l'andar mi facean di nullo costo. Ed ecco piangere e cantar s'udie labia mea domine, per modo tal che diletto e doglia parturie. O dolce padre, che è quel ch'io odo? Cominciai io, ed elli: ombre che vanno forse di lor dover solvendo il nodo, sì come i peregrin pensosi fanno, giugnendo per cammin gente non nota che si volgono ad essa e non restanno. Così di retro a noi, piuttosto mota, venendo e trapassando, ci ammirava d'anime turba, tacita e devota. Negli occhi era ciascuna oscura e cava, pallida nella faccia e tanto scema che dall'ossa la pelle si informava. Non credo che così a buccia strema e risettone fosse fatto secco per digiunar quando più n'ebbe tema. Io dicea fra me stesso, pensando: ecco la gente che perdei Gerusalemme quando Maria nel figlio diedi becco. Parean l'occhiaie anella senza gemme. Chi nel viso degli uomini legge omo, ben avria quivi conosciuta lemme. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo si governasse generando brama e quel d'una acqua non sappiendo como? Già era in ammirar che sì li affama, per la cagione ancora non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama, ed ecco, del profondo della testa volse a me gli occhi un'ombra e guardò fiso. Poi gridò forte: qual grazia m'è questa? Mai non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. Questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza alla cangiata labbia e ravvisai la faccia di Forese. Deh, non contendere all'asciutta scabbia che mi scolora, pregava, la pelle, né a difetto di carne ch'io abbia. Ma dimmi il ver di te, di chi son quelle due anime che là ti fanno scorta, non rimaner che tu non mi favelle. La faccia tua, ch'io lagrimai già morta, mi dà di pianger, mo non minor doglia, risposi io lui, veggendola sì torta. Però mi di, per Dio, che sì vi sfoglia, non mi far dir, mentr'io mi maraviglio, che mal può dir chi è pien d'altra voglia. Ed egli a me: dell'eterno consiglio cade vertù nell'acqua e nella pianta rimasa dietro ond'io. Sì, ma sottiglio. Tutta esta gente che piangendo canta, per seguitar la gola oltra misura infame in sete, qui si rifà santa. Di bere e di mangiar n'accende cura l'odor che esce del pomo e dello sprazzo che si distende su per sua verdura. E non pur una volta questo spazio girando si rinfresca nostra pena. Io dico pena e dovria dir sollazzo, che quella voglia agli alberi ci mena che menò Cristo lieto a dire e lì quando ne liberò con la sua vena. E io a lui: Forese, da quel dì nel qual mutasti mondo a miglior vita, 5 anni non son volti infino a qui. Se prima fu la possa in te finita di peccar più, che sovvenisse l'ora del buon dolor che a Dio ne rimarita, come sei tu quassù venuto ancora? Io ti credea trovar là, giù di sotto, dove tempo per tempo si ristora. Ond'egli a me: Sì tosto m'ha condotto a ber lo dolce assenso di martiri, l'anella mia col suo pianger dirotto. Con suoi prieghi devoti, con sospiri tratto m'ha della costa ove s'aspetta, e liberato m'ha degli altri giri. Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia, che molto amai, quanto in bene operare è più soletta. Che la barbagia di Sardegna assai nelle femmine sue più è pudica che la barbagia dov'io la lasciai. O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica? Tempo futuro m'è già nel cospetto, cui non sarà quest'ora molto antica, nel qual sarà in Pergamo interdetto alle sfacciate donne fiorentine l'andar mostrando con le poppe il petto. Quai barbare fu ormai, quai saracine, cui bisognasse per farle ir coperte o spiritali o altre discipline. Ma se le svergognate fosser certe di quel che il ciel veloce loro ammanna, già per urlare avrian le bocche aperte, che se l'antiveder qui non m'inganna, prima fien triste che le guance in peli colui che mo si consola con Nanna. Deh, frate, or fa che più non mi ti celi. Vedi che non pur io, ma questa gente tutta rimira là dove il sol veli, perch'io a lui. Se tu riduci a mente qual fosti meco e qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente. Di quella vita mi volse costui che mi va innanzi l'altrier, quando tonda vi si mostrò la suora di colui e il sol mostrai. Costui per la profonda notte menato m'ha di ver morti con questa vera carne che il seconda. Indi m'han tratto su li suoi conforti, salendo e rigirando la montagna che drizza voi che il mondo fece torti. Tanto dice di farmi sua compagna che io sarò là dove fia Beatrice. Quivi convien che senza lui rimagna. Virgilio è questi che così mi dice e additalo. E quest'altro è quell'ombra per cui scosse dianzi ogni pendice lo vostro regno che da sé lo sgombra. Fine del 23° canto del Purgatorio.